Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Eccoci di nuovo insieme, tutto pronto per la presentazione delle domande per il bonus straordinario a sostegno delle famiglie a basso reddito introdotto dal pacchetto anticrisi. Sono stati infatti approvati la settimana scorsa dall'Agenzia delle Entrate i modelli per la richiesta del bonus, che dovranno essere compilati e presentati dai soggetti che ne hanno diritto. Il beneficio, come abbiamo già spiegato anche la settimana scorsa, consiste in un bonus straordinario erogato, quindi erogato una sola volta e una tantum, il cui ammontare può variare da 200 euro fino ad un massimo di 1000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare che ne fa richiesta. E visto appunto che, come dicevamo, è stata divulgata dall'Agenzia delle Entrate la modulistica proprio alla fine della settimana scorsa, oggi noi abbiamo voluto ritornare sull'argomento per chiarire meglio i dubbi di chi deve compilarla, e magari faremo di nuovo anche il punto invece sull'erogazione della carta sociale, la social card, che sono in corso appunto le distribuzioni, le social card sono in corso di distribuzione da parte delle poste, e anche su questo, magari per chi ancora non è andato a ritirarla pur avendone diritto, cercheremo di chiarire i termini anche per poterla avere. I nostri interlocutori di questa mattina è tornato il collega del Sole 24 Ore Cristiano Dell'Oste, insieme a Fabrizio Patti, che stanno seguendo appunto tutta la tematica legata al bonus sociale, e poi abbiamo interpellato anche Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale delle ACLI per lavoratori dipendenti e pensionati, uffici in questi giorni assolutamente molto frequentati, proprio per chiedere tutti i chiarimenti sul tema che affrontiamo anche noi oggi a Salva Danaio. Per le vostre domande il numero è sempre lo stesso, è l'800240024. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. La borsa stamattina ha avuto un andamento già a due facce, partita male. Inevitabilmente, dopo i forti rialzi di ieri, questa mattina gli operatori si sono subito scatenati alla ricerca delle prese di profitto, poi però è arrivato l'indicatore ZEV, la fiducia degli operatori finanziari in Germania, il dato è risultato migliore delle attese, e questo ha contribuito a cambiare appunto la direzione della seduta in Europa. Adesso ancora in rialzo Parigi più 2%, Francoforte più 1,18%, Londra più 1,78%, Piazza Affari più 1,13%, sull'S&P MIB, quindi un mercato che cerca di mantenersi positivo, di consolidare i fortissimi rialzi che sono stati appunto messi a segno ieri dopo la presentazione nel fine settimana, o perlomeno non la presentazione formale ancora, comunque il presidente americano Barack Obama ha preannunciato questo maxi piano di stimolo all'economia, che sarà fondamentalmente focalizzato sugli investimenti nelle infrastrutture, dunque su questa prospettiva il mercato ieri ha ritrovato un po' di vigore. Un'occhiata ai migliori titoli a Piazza Affari rapidamente in questo momento: Banco Popolare più 5,27%, nuovi vertici già al lavoro per ridisegnare anche l'assetto della banca, il titolo dunque in positivo. Mondadori più 4,99%, anzi più 5 in questo momento, Saipem più 5, Fiat più 5% a caccia di nuovi alleati nonostante la forte difficoltà del settore, Fastweb più 4,37%, Bulgari più 4%, mentre scende di un punto Telecom, scende dello 0,8% Unipol, Autogrill meno 0,5%, Parmalat meno 0,39%. Euro in rapporto al dollaro a 1,28,45. Abbiamo ancora dati preoccupanti sul versante societario, anche se oggi la giornata è buona. Sony, il colosso nipponico dell'elettronica, ha annunciato che ridurrà la sua forza lavoro di 16.000 unità. Insomma, in Giappone le cose non vanno bene, il paese è, come tutta l'economia globale, d'altronde sull'orlo della recessione, per cui le grandi aziende stanno pagando pesantemente. Detto questo, lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Siamo ritornati sul bonus sociale. Dicevamo, l'Agenzia delle Entrate ha divulgato i moduli per appunto ottenere questo benefit. Come si fa? Sentiamo le ultime novità. Il pacchetto pacchetto anticrisi è stato varato, ma di fronte a carta acquisti e bonus sociale molte famiglie non sanno bene come comportarsi. I soldi non sono molti, ma farebbero davvero comodo in questo momento di crisi. Quindi che fare? I quesiti su cui si interrogano gli italiani sono molti. Posso accedere al bonus? Come presentare la domanda? E a chi? E una volta ottenuto il beneficio, come funzionerà? Alcune risposte sono arrivate proprio in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate, che ha messo a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadelleentrate.gov.it i moduli per la richiesta del bonus sociale e le istruzioni per compilarli. Il beneficio consiste in un bonus straordinario erogato una tantum, cioè una sola volta, che può variare da 200 a 1000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare che ne fa richiesta. Riguardo alle scadenze, se la richiesta si esegue in base al reddito 2007, la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009 al proprio sostituto d'imposta. Se invece si riferisce al reddito 2008, la scadenza per presentare la domanda è il 31 marzo 2009. La domanda dovrà essere invece inviata per via telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il beneficio non sia erogato dal sostituto d'imposta. La domanda per ottenere la social card va invece presentata ad un ufficio postale. Ma la differenza principale tra bonus famiglia e carta acquisti non è solo questa. La card vale 40 euro al mese e ha una base di reddito diverso rispetto al bonus famiglia. Per il bonus, infatti, bisogna guardare al reddito complessivo, mentre nel caso della social card vale l'ISEE. Benefici diversi con presupposti diversi, dunque, che possono anche essere cumulati da quelle famiglie che hanno i requisiti previsti dalla legge. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Vedo già una lunga carrellata di ascoltatori pronti ad intervenire con le loro domande. Un saluto a Fabrizio Patti e Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno. Ciao, ciao Cristiano, ciao Fabrizio. Do il benvenuto anche a Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale delle ACLI per lavoratori dipendenti e pensionati. Dottor Conti, io inizio subito con lei perché mi piacerebbe capire che cosa sta succedendo ai vostri centri di assistenza. Sono molte le richieste di assistenza, per l'appunto, sui temi che affrontiamo stamattina. Quali sono le domande più diffuse, più gettonate? Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Sì, dagli inizi già della settimana scorsa, quando è partita la social card, le richieste di assistenza negli uffici di tutta Italia sono numerosissime. Fondamentalmente le persone hanno bisogno di capire, è un provvedimento nuovo e di conseguenza si stanno avvicinando un po' tutti quanti, per cui nel momento stesso in cui le persone sentono che la social card verrà erogata alle persone che hanno più di 65 anni, molti 65 anni, prima ancora di fare una valutazione del proprio reddito personale, si recano negli uffici per capire a che cosa si riferisce, se possono essere persone che poi verranno a soddisfare tutti gli altri requisiti che servono. E infatti, che sono tra l'altro soprattutto legati al reddito, sono dei requisiti molto molto stringenti, soprattutto per la social card, sì. Sulla social card sì, ci sono una dozzina di punti che devono essere rispettati, che vanno sia dalle condizioni reddituali, sia alla condizione dei parametri ISEE, sia al fatto di avere delle condizioni soggettive particolari, che sono quelle per esempio di non possedere più di un'autovettura o di non possedere utenze elettriche oltre a quella domestica o utenze del riscaldamento oltre a quelle domestiche. Ecco, sono dati che per la prima volta vengono richiesti, di conseguenza per la prima volta verrà fatta una mappatura anche di soggetti che vivono e che hanno queste tipologie. Questa è anche una delle volontà del Ministero, cioè riuscire ad avere per la prima volta una sorta di censimento di certe tipologie di soggetti, di famiglie. Infatti, ecco, quindi molta gente che si presenta ai vostri sportelli, magari nella convinzione di avere diritto o all'uno o all'altro beneficio fiscale, chiamiamolo così, non è esattamente così, anche se in questo momento l'assistenza, come ci diceva Conti, si è focalizzata soprattutto sulla social card che viene già erogata. Per quello che riguarda invece il bonus sociale, dovremmo rinviare l'erogazione di questo contributo ai prossimi mesi. Ma qual è la vostra sensazione, Conti, così tanto per capire anche quello che sta succedendo fra le famiglie italiane? E che ci sia molta gente che ha necessità? Sì, e si accontenta anche di 40 euro al mese? Sì, sicuramente anche quello delle 40 euro al mese, che può sembrare un intervento minimale per certi soggetti che hanno le caratteristiche per averne diritto, diventa un intervento che in termini percentuali diventa rilevante, per cui a tutti gli effetti sì, c'è una grande aspettativa, c'è molta delusione, molta amarezza quando si vede poi che in realtà per tutta una serie di motivi non si può rientrare, come invece abbiamo visto una grande euforia per soggetti invece che scoprivano di rientrarsi e avevano diritto a questa posizione. Su bonus, sì, effettivamente abbiamo richieste, ma in questi giorni c'è stata più che altro una richiesta data dal fatto che abbiamo fatto presente alle persone che spesso e volentieri non rientravano nei requisiti della social card che invece avrebbero potuto aver diritto al discorso bonus, che interesserà invece un numero molto maggiore di persone, e questo, diciamo così, è stato importante, perché l'essere esclusi da una parte ma ricompresi da un altro provvedimento ha in un certo qual modo consolato molte persone. È vero. Grazie dottor Conti. Allora, visto che lei lo ha introdotto, cominciamo ad esplorare anche il mondo del bonus sociale. Eravamo andati su questo argomento anche la settimana scorsa con Salvadanaio, con le prime informazioni di cui eravamo in possesso. Adesso abbiamo qualche dettaglio in più, perché Cristiano Dell'Oste è ritornato con noi. L'Agenzia delle Entrate ha diramato i moduli con cui è possibile fare richiesta di questo bonus. In realtà io stamattina mi sono stampata la modulistica dell'Agenzia delle Entrate e ho scoperto che il modello è doppio. Per quale motivo? Ci sono due modelli da poter utilizzare. Esatto, diciamo che intanto diamo un primo riferimento a chi volesse poi avere informazioni, che è il sito delle entrate www.agenziaentrate.it. Da lì si possono scaricare i moduli, ci sono anche le relative istruzioni, e questo consente insomma di avere un'indicazione. Il modello, dicevamo, in realtà è duplice, anche se poi l'aspetto è tutto sommato abbastanza simile. Si tratta di una paginetta anche abbastanza semplice nell'aspetto, perché da un lato c'è la possibilità di presentarlo al sostituto d'imposta, dall'altro c'è la possibilità di presentarlo invece direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica. Questo, diciamo, la diversità di modelli corrisponde anche alla diversità di procedure. È un discorso un po' complesso, ma in buona sostanza possiamo dire, per cercare di semplificarlo, che coloro che hanno appunto un sostituto d'imposta, vale a dire un datore di lavoro oppure un ente pensionistico per dal quale ricevono un trattamento previdenziale, quindi l'INPS per intenderci, avranno un modello. Coloro che invece non si trovano nella condizione di poter ricorrere a un sostituto d'imposta, ad esempio perché nel momento in cui faranno domanda si sono messi in proprio, oppure, ipotesi un po' meno piacevole, sono rimasti disoccupati, allora potranno inoltrare la domanda direttamente all'Agenzia delle entrate. Esatto. Allora, per fare un po' il punto anche sul bonus, ne approfitto della domanda di Angelo da Bergamo, con il quale inauguriamo le nostre telefonate di oggi. Inauguriamole subito perché ce ne sono tante. Angelo, benvenuto a Salvadanaio. Grazie signora, io sono pensionato di 68 anni. Riguardo col bonus lì dei 22.000 euro, così cosa viene automatico? C'è da compilare a qualche modulo o arriva direttamente dall'INPS? E infatti, Angelo, è proprio quello che stavamo precisando in questo momento. Se uno ha diritto alla carta sociale, diciamo che la comunicazione gli arriva direttamente a casa. Per quello che riguarda invece il bonus sociale, Fabrizio, magari qui mi puoi aiutare tu, dobbiamo attivarci direttamente per farne richiesta. Infatti abbiamo detto, l'Agenzia delle Entrate ha già comunicato i modelli, insomma, come sono fatti e quindi come vanno compilati. Esattamente, bisognerà compilare il modulo che è stato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Si potrà autocertificare il proprio reddito o quello del 2007, oppure in alternativa, se fosse più conveniente o se rientrasse solamente il reddito nel 2008, si può fare l'autocertificazione anche per quel che riguarda il 2008. In ogni caso, il consiglio da dare alle persone che sono meno pratiche di compilazione di moduli è quello di rivolgersi a un centro di assistenza fiscale, che può infatti dare tutte le indicazioni, spiegare se si rientra nei contributi e quali sono le modulistiche. E infatti è lì che volevo arrivare per Angelo, perché magari non tutti abbiamo né un computer a disposizione, soprattutto magari non abbiamo la stampante per poter stampare la modulistica. Hai voglia di girare anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate? Magari per noi, Cristiano, questo è il lavoro quotidiano, certo, per molte persone decisamente meno. Quindi Angelo, per esempio, che non ha ben capito se ha diritto o no a questo beneficio, cosa può fare? Poi andiamo magari da Conti, che è più abituato ad avere un approccio diretto magari proprio con i... Certo, diciamo subito che la strategia di rivolgersi a un centro di assistenza fiscale è quella sicuramente vincente. Diciamo che nel suo caso, essendo al di sopra dei 65 anni, potrebbe anche verificare se ha diritto alla social card, può rivolgersi, appunto, dicevamo, al CAF. Però lui ha citato un tetto di reddito, lui ha citato un tetto che potrebbe essere euro, troppo alto, certo. E poi diciamo anche un'altra cosa che viene specificata nel decreto, che la procedura di invio della domanda viene fatta gratis dagli intermediari, mm-hmm, quali i CAF, quindi questo è un altro, come dire, se possibile incentivo a rivolgersi e a chiedere informazioni per capire meglio come orientarsi. Posso ripristinare la linea con Angelo da Bergamo? Angelo, siamo stati chiari oppure non ha capito cosa deve fare? Sì, abbastanza. Perfetto. Andare ad un patronato magari dal suo paese, ecco, ad un centro di assistenza fiscale, magari l'aiutano loro a stampare la modulistica necessaria se ha diritto al bonus, oppure se ha diritto anche alla carta sociale, però forse lei ha una pensione un pochino più alta dei 6.000 euro. Cioè, è sui 20.000 euro, però signora, guardi, lei che è molto gentile, mi permette una seconda cosa? Sì, ci dica. Mia moglie è ricoverata in casa di riposo, mm-hmm, che è paralizzata. Prende la pensione minima di 340 euro, perché io ne prendo troppi, no? Sanno, sì, fanno il cumulo. E poi prende l'accompagnamento, la sua invalidità. Però abbiamo più di 15.000 euro, perché se io devo pagare 1.200 euro al mese, sul conto corrente sono di più. Gli spetta o non gli spetta la social card? Oppure, se no, allora, non la social card, credo, però possiamo esplorare il mondo del bonus sociale. Allora, Conti, per quello che riguarda il CAF ACLI, Paolo Conti, come possiamo aiutare ad orientare Angelo, che ha un caso un pochino più complesso, insomma, della norma? Ma guardi, Bisogna verificare, per esempio, una cosa: se la moglie ha un'invalidità totale riconosciuta, dunque può essere ricompresa tra un soggetto portatore di handicap, a tutti gli effetti il limite per il limite di reddito al nucleo familiare sarà 35.000 euro, per cui probabilmente potrebbe avere diritto al bonus. Come diceva giustamente il suo collega prima, la cosa più importante è rivolgersi a un CAF, dove magari ha fatto anche la dichiarazione dei redditi, dove ha avuto altri contatti, dove c'è la possibilità di avere immediatamente disponibile la propria situazione di tipo economico e fiscale. A quel punto il CAF produrrà direttamente il modulo, per cui non c'è bisogno di stampare, tutti gli invii sono in via telematica, per cui c'è anche una grande riduzione di carta sotto questo aspetto. E nel caso in cui il signore di Bergamo abbia diritto al bonus, provvederà direttamente a mandare la richiesta all'ente previdenziale, all'INPS o all'INPDAP, dipende da quale ente dipende, che provvederà all'erogazione poi della somma dovuta nel mese di marzo 2009. E infatti, quindi, insomma, mettiamo questo punto fermo e chiariamo bene le idee. Per quello che riguarda la social card, se si ha diritto, siamo già censiti, le persone che ne hanno diritto sono già chiaramente censite e la comunicazione di aver questo diritto arriva direttamente a casa, Conti. Per quello che riguarda il bonus, invece, bisogna attivarsi direttamente per poter farne richiesta, giusto? Sì e no, nel senso che per il bonus dobbiamo attivarci, ecco. In questo caso, sì. Per la social card non è detto che tutte le persone che possono averne diritto saranno avvisate dal Ministero, perché il Ministero purtroppo non ha oggi un archivio di tutte le persone che potrebbero rientrare in questi requisiti, e di conseguenza ha mandato l'avviso solo a coloro i quali ritiene possano essere soggetti che possano averne diritto. Per esempio, ha mandato l'avviso a tutti i titolari di pensione sociale. Il problema però è che accade che a volte queste persone hanno la possibilità di avere la pensione sociale, però non hanno diritto alla social card, perché magari hanno due macchine intestate, perché magari una è del nipote, per ovvi motivi assicurativi si ritrovano in questa impossibilità. Quindi è necessario fare un ulteriore accertamento. Sì, mentre invece, per esempio, non l'hanno ricevuta alcune persone, soprattutto quei soggetti con bambini sotto i 3 anni. Perché soggetti che famiglie con bambini sotto i 3 anni e con un reddito ISE sotto i 6.000 euro non sono stati raggiunti da nessun tipo di avviso, e invece vediamo in questi giorni che c'è un certo numero di soggetti che rientra, appunto, proprio perché che ha diritto anche. 3 anni. alla carta sociale ricaricabile. La ringrazio per queste precisazioni. Ahmed da Milano, che ci permette di precisare anche alcuni aspetti legati a questi contributi e quando e in che maniera vengono erogati anche ai cittadini stranieri. Ahmed, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio 24. E approfitto per questa occasione perché io sono extracomunitario, lavoro qua da tanti anni in Italia. Mm-hmm. Sono residente a Sesto, siamo in 5 in famiglia, io e mia moglie e 3 bambini, sì. Il grande ha 13 anni, lavoro da solo, il mio reddito è di 21.000 euro. Mm. Io voglio chiedere se noi che abbiamo la casa di soggiorno, che lavoriamo in regola, abbiamo il diritto di questo bonus o no? Allora, Ahmed, ci sono delle precisazioni da fare sugli cittadini stranieri? Sì, Cristiano dell'Oste, vediamo un po' allora. Ma diciamo innanzitutto che dal momento che il decreto parla di cittadini residenti, è chiaro che, di residenti e non di cittadini, quindi è chiaro che per quanto riguarda il bonus, se si è in regola, quindi se si riceve un compenso, uno stipendio con i relativi moduli reddituali, si può chiedere il bonus famiglia. La social card invece è legata al requisito della cittadinanza. Nel caso specifico per un nucleo familiare sarebbe stato comunque escluso per esatto, i parametri reddituali in cui ci siano 5 componenti, il reddito complessivo non deve essere superiore ai 20.000 euro, quindi lui per 1.000 euro rimane fuori dal contributo, a quanto pare sì. Famiglia se il reddito complessivo è sì, ce l'ho detto 21.000. Ecco, una cosa importante però da dire è appunto sottolineare più volte il riferimento al reddito complessivo, che è una nozione un po' tecnica, a volte lo si confonde con l'imponibile, che è una cosa diversa. Mm-hmm. Il complessivo tende a essere più alto, quindi anche per queste differenze che magari al comune cittadino non sono così chiare, è bene comunque far sempre una verifica con un addetto ai lavori. E come tu precisi nel tuo pezzo di ieri sul Sole 24 Ore, come reddito complessivo dobbiamo andare a vedere tecnicamente quello che appare nei punti 1 e 2 del CUD 2008. Eccoci ritrovati a Salva Danaio questa mattina. Fabrizio Patti, Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, Paolo Conti, direttore generale del CAF Acri, il centro di assistenza fiscale delle Acri, per spiegare a chi ne ha diritto come si fa a fare la domanda per l'ottenimento del bonus famiglia e come si fa a fare la domanda eventualmente per la social card. Ci sono dei requisiti reddituali molto precisi e anche delle modalità diverse ovviamente per ottenere i due tipi di beneficio. In questi giorni ovviamente molte le domande che sono arrivate ce lo spiegava Paolo Conti ai centri di assistenza fiscale, soprattutto per la social card. Poi pian piano, visto che si sono chiarite le modalità e sono stati comunicati da parte dell'Agenzia delle Entrate i modelli per la richiesta del bonus famiglia, pian piano si dovrà appunto anche cominciare a fare assistenza anche su questo. Allora, c'era un ascoltatore che ci scriveva al 349-238-6666, ma per il bonus sociale parlate di reddito netto o lordo? E proprio su questo punto eravamo rimasti prima della nostra pausa. Cristiano Dell'Oste, stavamo spiegando che bisogna considerare per fare richiesta di questo bonus il reddito complessivo. Esatto, questo è il riferimento appunto è un riferimento tecnico che può disorientare, però la buona sostanza è che si tratta di un reddito al lordo degli oneri deducibili, però qui rischiamo di addentrarci in questioni un po' tecniche. Diciamo che la cosa... Prendendo l'ultima dichiarazione dei redditi, a che voce dobbiamo andare a guardare? Allora, se noi prendiamo l'ultimo CUD, per capirci, CUD 2007-2008, lo si trova nei punti 1 oppure nel punto 2. Questo è il riferimento e si guarda il reddito complessivo. Però se avete dei dubbi andate in un centro di assistenza fiscale e li individueranno appunto la riga corretta per il reddito da considerare. Sentite un po' di rumori di fogli perché anche noi siamo pieni di moduli sopra il nostro tavolo per poter dare l'informazione più corretta possibile. Allora, Emanuele da Genova, buongiorno, 800240024 per i vostri interventi. Ancora Emanuele, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senti, la mia domanda è questa. Allora, mia madre ha 85 anni, sì, e ora è stata ricoverata in istituto, in malata di Alzheimer. Gli è stato riconosciuto da poco l'invalidità al 100% e gli è arrivata la carta, la domanda per la carta, la social card. Ne ha diritto ugualmente, pur essendo, diciamo, residente, se così vogliamo dire, in questo istituto, ha il minimo di pensione, percepisce 100, 570 euro al mese. E soprattutto, visto che sua mamma è invalida al 100%, che può anche andare a ritirare la carta, quindi si può anche esercitare una delega. Immagino che lei, Emanuele, se lo potesse fare, ci andrebbe lei a prenderla, no? Esatto, a ritirarla alla posta. Quindi anche questi sono degli aspetti importanti sui quali la ringrazio, appunto, per averci permesso di andare a fare delle precisazioni. Paolo Conti, ovviamente la domanda è per lei. Se a questa signora, pur essendo in un istituto ed invalida al 100%, è arrivata la sollecitazione ad andare a ritirare la social card, è evidente che l'amministrazione finanziaria le ha riconosciuto questo diritto. Purtroppo non è proprio così. Cioè, bisogna verificare che effettivamente il reddito della persona rientri nel limite degli 8.000 euro, che è quello per le persone ultra settantenni che viene richiesto come reddito massimo. Bisogna fare una precisazione: in questi 8.000 euro, che sono il primo scoglio, diciamo così, da superare, vengono compresi tutti i redditi della persona, anche quelli che di qualunque tipologia essi siano, anche se sono esenti da IRPEF, come per esempio le invalidità o le indennità di accompagnamento. Per cui bisogna verificare prima di tutto che la somma dei redditi assoggettati a IRPEF, dunque il modello CUD di questa signora, più quelle che sono le altre somme che questa persona percepisce, invalidità civile, indennità di accompagnamento, che siano sotto gli 8.000 euro. A quel punto, se rispettiamo questo requisito e anche il requisito dei 6.000 euro di ISEE venga rispettato sulla base delle proprietà immobiliari della signora, non è un problema poter andare a ritirare la carta da parte di un'altra persona, del figlio in questo caso, che però dovrà farsi autenticare la firma per la delega direttamente presso la casa di riposo da un funzionario comunale o altrimenti da un notaio. È prevista proprio la delega per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti. Evidentemente, perché invece avevo letto da qualche altra parte che forse all'inizio c'era stata una direzione diversa, cioè che chi ne aveva diritto doveva andarla direttamente a ritirare senza avere possibilità, appunto, di delegare a qualcuno questo ritiro, o no? È proprio un modulo specifico da compilare. L'unica cosa è che, essendo la card, vede, ha una caratteristica importante: non è poi nominativa, per cui una volta ritirata la card può essere utilizzata da chiunque, dai familiari per andare a fare la spesa. Una volta ritirata, però, il che vuol dire che le poste hanno necessità di individuare in maniera certa il soggetto che ritira e a cui è legato quel numero di carta. Ecco il motivo per cui la delega è prevista, però deve essere con una firma autenticata. Benissimo, ritorniamo al bonus famiglia. Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Volevo chiedere un'informazione che può essere di interesse generale. Abbastanza importante, perché è una situazione di una famiglia che da diversi anni è, insomma, un po' un classico in Italia. Sto parlando di una famiglia di conviventi. Sì. Volevo chiedere questo: se una donna che ha un reddito piuttosto basso, sui 12-13 mila euro, che ha a carico i figli di cui prende gli assegni familiari, volevo sapere se in questo contesto può rientrare in questo bonus fiscale, considerando che, dovendo fare reddito anche col compagno, in questo caso io superiamo abbondantemente, ma pensando al reddito suo con i figli a carico come ha, in pratica no. Volevo sapere come potrebbe porsi in questo contesto. Come poter... Allora, il requisito anagrafico contempla anche il fatto di essere sposati. Adesso vedo un confronto in diretta fra Cristiano Dell'Oste e Fabrizio Patti. Giro la domanda a Conti, chi se la sente di voi due, cerchiamo di dare delle indicazioni. Fabrizio Patti, buongiorno. Allora, io credo che buongiorno a Claudio, naturalmente, perché ci eravamo già salutati. Allora, dalla lettura del testo sembrerebbe che il reddito del convivente non debba essere sommato a quello della madre, e quindi teoricamente la signora potrebbe aver diritto al bonus da 200 euro, visto che percepisce un reddito complessivo inferiore ai 15.000 e ha due figli a carico. E allora il reddito, a questo punto il bonus dovrebbe essere di 450 euro. Sì, infatti, perché stiamo parlando di un nucleo familiare di tre componenti. Chiediamo conferma a Conti? Sì, dalla stretta lettura del decreto si parla sempre di coniuge e come tale, dunque, di un soggetto che abbia contratto matrimonio. E se parliamo di social card, il problema in realtà non c'è, perché, tenendo conto del reddito ISEE, nel nucleo familiare Finise si comprendono tutti i soggetti che sono in quello stato di famiglia, di conseguenza non si parla di, è una famiglia intesa non nel senso civilistico del termine, ma in un senso allargato, per cui ai Finise si prende anche il reddito del compagno, sempre che questo risieda nello stesso appartamento. Per cui io direi, per quanto riguarda il bonus, può averne diritto la signora. Nel caso in cui volesse fare domanda di social card, a quel punto nel reddito ISE si ricomprenderebbero anche i redditi del marito, del compagno, del convivente, a quel punto probabilmente non avrebbe più diritto. Quindi che cosa gli conviene fare? Magari Cristiano, facciamo un punto della situazione dell'oste, riprendere in mano tutta la documentazione reddituale possibile ed immaginabile, la situazione anche anagrafica, diciamo il profilo familiare, andare ad un CAF e magari addirittura essere nella situazione che si ha diritto ad entrambi i bonus, perché tra potrebbe l'altro sono anche cumulabili. Ecco. Potrebbe anche succedere, anche perché i bonus sono cumulabili. Comunque ecco, questo può essere forse l'occasione anche per precisare un aspetto che dalle email che riceviamo dai lettori disorienta parecchio, perché i due benefici hanno requisiti diversi anche per quanto riguarda i confini della famiglia. In particolare per quanto riguarda il bonus, lo ricordiamo, vanno conteggiati al di là del coniuge, che in teoria va sempre ricompreso, soltanto i figli e gli altri familiari che siano fiscalmente a carico. Quindi un figlio convivente che viva ancora con i genitori, che abbia uno stipendio anche elevato, di fatto non fa parte della medesima famiglia, non va conteggiato se non è fiscalmente a carico. Quindi questo è un aspetto che spesso genera confusione, ma che ai fini del bonus va ben chiarito. Io adesso dobbiamo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Abbiamo in attesa Antonino da Roma, Angelo da Bari, li sentiamo fra qualche istante. Intanto c'è un ascoltatore che chiede per gli unici di noi che praticamente come unico risparmio troveranno vantaggio dall'Euribor che sta scendendo, quindi ai mutui, a quanto è questa mattina? Al 3,42% credo, la scadenza a 3 mesi. I nostri confronti a microfoni spenti sono, non dico accesi, perché come dire, la materia sembra in apparenza semplice, perché insomma abbiamo spiegato più volte come in realtà questi interventi mirano ad andare ad aiutare popolazioni che hanno la popolazione, diciamo le famiglie che hanno un reddito piuttosto basso, piuttosto contenuto. Poi scopriamo che le eccezioni, gli incastri anche familiari in qualche maniera complicano un po' anche l'erogazione di questi benefit a chi teoricamente ne avrebbe diritto. Si scopre che magari per poche centinaia di euro si scavallano i requisiti reddituali, e quindi in certi casi si scopre anche che magari si è nella convinzione di aver diritto o al bonus famiglia o alla social card e non lo si è. E quindi stamattina cerchiamo di chiarire nella maniera migliore che possiamo anche i termini entro i quali appunto questi diritti è possibile ottenerli. Allora abbiamo Antonino da Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie tante. Grazie a lei. Ci dica allora, tutto. Io volevo soltanto chiedere cortesemente, sono un cittadino italiano, sono stato licenziato dopo aver contribuito 31 anni e mezzo nel 2000, con 53 anni, sono 8 anni e mezzo, malgrado che ho vinto la causa, volevo sapere se sono un cittadino italiano che fa parte di questi bonus o no, perché la confusione è tanta, mi creda, lo so. Forse lo vogliono che si crea una confusione del genere. Grazie tante, scusate se mi sono dilungato. No, non si preoccupi Antonino. Allora vorrei andare a Paolo Conti che credo abbia ricevuto domande di questo tipo da molti ex lavoratori, perché ci sono molte persone che magari adesso si trovano nella condizione di non avere un lavoro e paradossalmente questa è proprio la condizione che li esclude anche dalla possibilità di avere questi o il bonus famiglia o la social card. Conti, è così? Sì, in un certo qual modo sì. Per quanto riguarda la social card, bisogna verificare il nucleo familiare di cui fa parte questa persona, perché a tutti gli effetti, come lei ha ribadito prima, il problema della social card e del bonus è che lavorano su due basi diverse, l'ISE, il reddito ISE in un caso, dunque un reddito complessivo di tutto il nucleo familiare. Se uno dei figli di questo signore abitasse ancora in casa, come ha detto il collega prima, genererebbe in questo caso reddito e dunque probabilmente non gli spetterebbe nulla. Rispetto invece al discorso del bonus, che spetta tenendo conto invece di una famiglia molto, molto, molto più ristretta, che comprende solo la moglie e i figli fiscalmente a carico, dunque con redditi sotto i 2.840 euro. Ora, la persona disoccupata in realtà può diventare, far parte di un nucleo dove per esempio lavora la moglie. Mm. Allora a questo punto qui, se la moglie del nostro radioascoltatore fosse dipendente o pensionata, bisogna valutare per esempio per il bonus il numero di componenti del suo nucleo e verificare se eventualmente il bonus non spetti direttamente alla moglie. Può spettare direttamente a lui il bonus? Sembrerebbe di sì, perché la norma in realtà non esclude di fatto i soggetti che non hanno nessun tipo di reddito. Per cui a tutti gli effetti sembrerebbe che questo possa essere uno di quei casi in cui il bonus possa, al limite, sempre che ne vengano rispettati i requisiti reddituali del soggetto e della sua famiglia, potrebbe essere richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate. Però bisogna, ribadisco, verificare per ogni singolo caso, perché come ha detto lei all'inizio, ci sono una tale quantità di variabili da tenere in considerazione che diventa veramente difficile fare un'indicazione generale. E infatti, e visto che siamo tutti dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria molto dettagliatamente censiti, forse è il caso di andare laddove magari dal database generale risulti qual è la nostra situazione, quindi un CAF, un centro di assistenza fiscale, riesce in un batter d'occhio, insomma, a profilarci dettagliatamente e quindi a dire se siamo nel diritto di ottenere o l'uno o l'altro tipo di bonus. Tra l'altro, Fabrizio Patti, abbiamo spiegato più volte che il bonus sociale in particolar modo spetta a lavoratori dipendenti e a pensionati, ma sono esclusi da questo bonus, e qua lo abbiamo spiegato dettagliatamente anche l'altra volta, i lavoratori autonomi. Esattamente, sono esclusi, sono elencate una serie di tipologie di reddito che vanno a concorrere il reddito complessivo, e tra queste non sono previste le attività derivanti dal lavoro autonomo abituale, sono invece comprese le attività di lavoro autonomo occasionale, così come sono anche presi in considerazione i redditi da collaborazioni saltuarie. 800 24 00 24, torno a ricordare il numero verde per intervenire in diretta. Leggevo ancora il pezzo di Cristiano Dell'Oste di ieri: se il marito è un lavoratore dipendente e la moglie è un'autonoma, il bonus non c'è, punto. Questo seccamente. Dunque abbiamo Angelo da Lecce. Salve, buongiorno. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Senta, e siccome io una decina di giorni fa ho ricevuto la modulistica che appunto mi invitava a presentare domanda inerente, insomma, al fatto della social card. Sì. E la domanda che adesso io giro a voi: siccome l'intestatario della social card è mia figlia, cioè adesso tutte quelle che sono le condizioni per rientrare vanno girate a me genitore, o voglio dire, o devono rimanere, o sono quelle, voglio dire, quindi inerenti? Dal punto di vista nominativo è arrivata all'indirizzo di sua figlia, cioè sì. Ecco, io mi sono posto, siccome io sono il genitore, a questo punto tutte quelle che sono le condizioni per rientrare, cioè sono rivolte adesso. Quanti anni ha sua figlia Angelo? È meno di 3 anni, quindi piccina, e qui è anche la precisazione che facevamo prima con Paolo Conti. Allora, attenda lì Angelo, Conti, finalmente abbiamo cominciato, abbiamo avuto l'opportunità di esplorare, perché ci focalizziamo, come diceva lei prima, anche quasi esclusivamente sui pensionati, con un trattamento pensionistico molto contenuto, molto basso, però ne hanno diritto alla social card anche famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni. Sì, ce n'è un certo numero, le dico, stanno venendo fuori, anche perché in questo caso per le famiglie con bambini sotto i 3 anni non si tiene conto del reddito né complessivo né imponibile, ma si tiene conto solo del reddito ISE, della famiglia, del nucleo familiare, che deve essere sotto i 6.000 euro. Per quanto riguarda la domanda che ha fatto la persona da Lecce, i requisiti sono del nucleo familiare, cioè i requisiti sono che devono essere rispettati sono relativamente alla bambina e ai genitori. Questo cosa vuol dire? Che non essere intestatari più di un'utenza elettrica domestica, non essere intestatari di più di 2 utenze del gas o di 2 autoveicoli, o proprietari di più di un certo valore di patrimonio immobiliare, si riferisce a la bambina e ai 2 genitori, per cui l'insieme di queste 3 persone devono rispettare i singoli requisiti. Quindi insomma non deve preoccuparsi, Angelo, del fatto che la comunicazione sia arrivata all'indirizzo nominativo, diciamo, della bambina, perché questo è l'obiettivo specifico della misura, ma deve gestire lui interamente la pratica. È ovvio, non può farlo la bambina, perché credo che Angelo insomma si preoccupasse di questo. Non è, dice, che vada alla posta, voglio ritirare la social card che è per mia figlia e mi contestano questo aspetto. No, ma la modulistica per ritirare la social card per i minori di 3 anni prevede appunto la nomina del tutore e dell'esercente da parte potestà genitoriale, che firma in nome per conto del soggetto e ritira la carta. Ci mancherebbe altro. Certo, tra l'altro, Conti, abbiamo forse non abbiamo ancora precisato specificatamente che le social card sono in corso di diffusione da parte delle poste, dove le possiamo andare a ritirare, ma non sono ancora cariche. Allora, no, bisogna, attenzione, anche lì ha fatto benissimo a ricordare questo, la social card viene erogata immediatamente se ce n'è la disponibilità presso l'ufficio postale in cui ci si è recati, o altrimenti entro 5 giorni dalla presentazione della domanda. Attualmente quasi tutti gli uffici postali sono in grado di erogarla immediatamente. Per l'erogazione bisogna aver compilato appunto la domanda, che possono fare direttamente presso i CAF, avere con sé la copia del documento di identità e della dichiarazione ISEE. A quel punto la card però non è carica, perché praticamente le poste devono passare il dato relativo al numero della carta che è stata trasferita al soggetto avente diritto alla società di gestione, che è Mastercard, di tutto il pacchetto. La carta sarà attiva al secondo giorno lavorativo successivo all'emissione. Praticamente viene richiesto un giorno lavorativo per fare tutta questa procedura, per cui la carta ritirata il lunedì sarà attiva dal mercoledì immediatamente successivo. Per chi tra l'altro si velocizza con la procedura e fa la richiesta entro la fine di dicembre, ha diritto ad ottenere il periodo retroattivo, per cui 120 euro, Conti, giusto? Questa è la cosa più importante, perché chi ne ha diritto e fa domanda entro il 31 dicembre troverà la card carica di 120 euro. Tutte le domande, perché in realtà la norma partiva da ottobre. Infatti. Sì, perché era tutto nel pacchetto legato alla finanziaria di quest'estate, la card. Sì. Non era nella misura anticrisi. Rapidamente, ci rimane un minuto di tempo, riusciamo a sentire Andrea da Genova, se ci promette di essere rapidissimo. Andrea. Sì, buongiorno. Sì, Andrea. Sì, volevo sapere se mia madre praticamente poteva rientrare sul bonus di famiglia, nel senso che vive con mio fratello, non ha reddito e c'è solo il reddito di mio fratello praticamente. E se rientrava, appunto, se poteva riprendere. Vediamo, sì, allora, dunque, sua mamma vive con suo fratello, lei non sta con loro, Andrea? No, io vivo per conto mio. Nucleo familiare di 2 persone, chi mi vuole rispondere? Cristiano, ci proviamo con te? Bisognerebbe fare riferimento al reddito, molto rapidamente, bisogna sapere quanto ha il fratello di reddito. La soglia per un nucleo con 2 persone, posto che la madre risulti a carico del figlio, è di 17.000 euro di reddito complessivo. Anche in questo caso bisogna approfondire se non ci siano altre variabili, insomma. Grazie a Cristiano Dell'Oste e Fabrizio Patti, ma soprattutto anche a Paolo Conti, che ci ha dato veramente il polso della situazione, visto che ogni giorno si confronta con le famiglie che vengono a chiedere informazioni su questi punti. Quindi, direttore generale del CAF ACLI, Conti, a presto, la reinviteremo molto volentieri un'altra volta. E tra l'altro, se avete dei dubbi, Salvadanaio non può esaudire le richieste di tutti, come non possono farli i giornali, andate in un patronato, in un centro di assistenza fiscale, perché lì sono obbligati a darvi tutte le informazioni di cui avete necessità in questo momento, per poter capire se avete diritto o no a questi bonus. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Salvadanaio.